Vendo tutto di Matteo Caccia. Quando finisce una storia è come quando da bambini finiamo la nostra fetta di torta. Ce ne rimaniamo lì imbambolati nella speranza che ce ne sia un altro boccone nascosto chissà dove. Ecco, il bello delle storie è proprio questo. Hanno il sapore delle torte e ci fanno sentire bambini. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so. Succede a tutti e stavolta è toccata a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo il manoscritto del programma. Ora lo facciamo sentire subito. Paolo, mi abbassi un attimo la base perché ce l'ho qua, il manoscritto. Si sente un po'? Sono più o meno 400 pagine. Allora, andiamo subito al dunque. Non è in ordine. Le pagine non sono in ordine. Non sono così ordinato come ad esempio sarebbe stata Laura Faggin, che le ha messe tutte nel suo faldone e sono tutte precise puntata per puntata. No, le ho cominciato ad appoggiare sulla scrivania, poi le ho messe nel cassetto, poi le ho messe uno in un cassetto, un altro blocco in un altro. Adesso il malloppo è praticamente, credo, completo, cioè sono tutte le puntate, però sono in disordine. Ad esempio quella che c'è in mano è di ieri, 28, no, è dell'altro ieri. Sono tutte appuntate anche, per cui guarda, vi leggo qualcuno degli appunti, tipo 16 aprile 2010, episodio oculista, scelta dei compagni di viaggio in viaggio in questo momento, non è che si capisca niente, 7 giugno, avete abbandonato la squadra, vi siete licenziati dal lavoro, lampada da tavolo, fino a qualche tempo fa non potevo fare a meno del mio computer, va bene, poi vediamo altre. Ecco, magari se non sbatto sul microfono è meglio, giusto Paolo? Questa qua, fine prima parte, seconda parte, vabbè, insomma, il manoscritto del programma è in vendita, andate a vederlo sul sito radio24.it oppure sul profilo, sul mio profilo, che Matteo Caccia vendo tutto. Prima di cominciare però vorrei leggervi un sms che è arrivato prima della diretta, firmato da Buddy. Buddy è un ascoltatore che, con cui c'è stato uno scambio anche di messaggi via mail e via Facebook. Ciao Matteo, ammetto che in questi giorni ti ho trascurato, il motivo, i mondiali di calcio. Ora siamo alla vigilia e il programma sta finendo. Come una voce sei comparso, ci hai viziato e tra poche ore come voce svanirai nell'etere. Il rammarico è di non averti mai potuto conoscere di persona. Nella vita non si può solo vendere, bisogna anche comprare. Per finire, ma si può beccare l'influenza il 1° di luglio? Si può essere più sfigati? Ciao Buddy, Buddy, grazie mille per il tuo messaggio e per la tua vicinanza in questi mesi. 800240024 349-238-6666, mentre anche Alessandra Tedesco si palesa di là in regia. È un po' un piacere avere tutte le persone che vengono un po' a trovare una sorta di commiato, no? Come se ci fosse la camera ardente in questo studio per questi 2 giorni finali. Oggi però è venuto un ascoltatore a recuperare un oggetto che ha comprato. Ha comprato il libro di ricette che ho venduto, credo, una decina di giorni fa. 7 euro. È venuto e se l'è portato via. Lui era abbastanza timido, quindi all'inizio ha semplicemente preso il libro. Poi l'ho accompagnato giù e lui mi ha raccontato che ha comprato 2 cose da me. Cioè, ha comprato questo libro di ricette e ha comprato la lavatrice. Era felicissimo perché diceva che la cosa meno costosa che aveva trovato l'aveva trovata a 250 euro, invece la mia l'ha pagata solo 50. La cosa però divertente è che lui di fatto da 6 mesi a questa parte, cioè mi diceva più o meno attorno al 20 di gennaio, insomma più o meno quando è cominciato questo programma, è andato a vivere con la sua fidanzata e quindi innanzitutto mi fa piacere che lui stia facendo la casa con i pezzi della mia, ma soprattutto mi è venuto da pensare su quante cose sono accadute a me in questi 6 mesi che ormai sapete praticamente a memoria. La cosa è che però io non so niente di voi, per cui visto che abbiamo fatto un pezzettino di anno insieme, questi 6 mesi, da gennaio a domani, perché non mi raccontate che cosa vi è successo in questi 6 mesi? 800240024 oppure 349-238-6666. Vale un po' tutto, in teoria valgono di più le cose che abitualmente hanno un peso, no? Per cui andiamo a parare sempre là, se vi siete sposati ad esempio, se vi siete separati invece, se avete fatto dei figli, se vi siete laureati, se avete fatto un viaggio, se avete fatto un viaggio in qualche, se avete realizzato un desiderio ad esempio, perché no? 800240024 oppure 349-238-6666. Perché ne parlavamo prima in redazione, la fine dell'anno non è il 31 di dicembre, la fine dell'anno è più o meno metà luglio, fine luglio, quando si va in vacanza. Di fatto adesso è come se fossimo a novembre e aspettassimo la fine di questa annata. Infatti si dice sempre ci si vede l'anno prossimo, ci sentiamo l'anno prossimo, che è come dire ci si vede dopo le vacanze, giusto? Quindi facciamo un po' un bilancio, anche se la parola bilancio è orribile, vabbè, non la ridico. Facciamo un po' un punto della situazione a partire da gennaio ad oggi. Riflettendo un secondo su cosa avete fatto, fate una, dico esatto perché Bonini me l'ha suggerito nell'interfono, solo che loro non t'hanno sentito. Esatto, bravo Bonini. Fate una lista di quello che vi è successo in questi sei mesi. 3 4 9 2 3 8 6 6 6 6, oppure 8 0 0 24 0 0 24. Magari avete imparato una lingua, ad esempio, in sei mesi. Se uno è stato in Inghilterra sei mesi, no? L'ha imparata l'inglese, immagino, no, non penso abbia imparato il francese. Se avete fatto l'amore per la prima volta, ad esempio, no? Ma prima abbiamo detto che stanno arrivando i giovani, c'erano i messaggi dei vent'anni. Se non avete mai fatto l'amore in questi sei mesi, direi che comunque è una notizia da dare anche, giusto? Abbiamo anche gli ottantenni, Bonini, questa è orribile. 8 0 0 24 0 0 24, 3 4 9 2 3 8 6 6 6 6. Quello che è successo a me in questi sei mesi lo sapete, ditemi che cosa è successo a voi in questi sei mesi. Per vedere il manoscritto c'è poco da vedere, sono le foto di un blocco di fotocopie. Andate sul sito radio24.it, per comprarlo andate su eBay. Per sentire la sua storia, che già un po' conoscete, state lì. Il manoscritto Vendo Tutto. Manoscritto completo delle puntate di Vendo Tutto da gennaio a luglio 2010. Stampato su pagine di carta bianca, usato durante le dirette del programma con tanto di appunti segnati a mano, non rilegato in disordine. Ottimo per chi vuole portarsi a casa nero su bianco il ricordo di tutto quello che è stato venduto. Valore commerciale nessuno, base d'asta Vendo Tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Non pensavo di venderlo questo manoscritto. Cioè, non è che non lo pensassi, è che proprio non era in progetto. Poi però, mano a mano che le puntate si accumulavano una sull'altra sulla scrivania, ho capito che questo era forse il pezzo più pregiato di tutta la collezione Caccia Vendo Tutto. Nel senso che chi si compra queste 120 puntate, stampate e appuntate a penna durante la diretta, di fatto si porta a casa un pezzo di questo programma. Anzi no, forse si porta a casa proprio il programma. Se si pensa che ogni puntata era composta da una media di 3 cartelle, alla fine questo è un malloppo di poco meno di 400 pagine. Quando a gennaio pensavo a questi giorni qui, ai primi di luglio, e quindi alla fine del programma, mi sembrava una data lontanissima. E allora ho fatto l'unica cosa che si può fare in un'occasione come questa. Mi sono dato degli obiettivi minimi. Ogni giorno un oggetto, ogni giorno una storia. Che poi è la cosa che dovrei impormi di fare sempre. Non ha senso guardare il traguardo quando è molto lontano, no? Bisogna solo metterlo nel mirino e poi abbassare la testa e pedalare. Anche quando le giornate sono storte, anche quando hai mal di pancia e fuori piove, una parte di quello che ci si è prefissati di fare bisognerebbe sempre farla. Una volta, qualche anno fa, ho fatto una lunga tournée in teatro insieme ad un attore molto più bravo e molto più esperto di me. E una sera, dopo una brutta replica, mi disse: «Vedi, ci sono delle sere in cui non si è in forma e lo spettacolo proprio non gira. Ecco, in quei casi lì, non cercare di fare cose difficili. Pensa semplicemente ad arrivare in fondo». Ecco, in alcuni momenti, quando proprio non ce n'è, bisogna solo andare dritti. E ho fatto così anche in questi mesi. Mi sono messo lì, ho raggruppato tutte le mie cose e ho cercato di mettere ordini. Le cose piccole e quelle più grandi, le cose che sembravano indispensabili e quelle di cui potevo fare a meno, ciò che riguardava solo me e quello che riguardava me e lei o solo lei. Di fatto è stata una specie di autoanalisi attraverso gli oggetti. È una cosa che consiglio a chiunque. È un viaggio strano, perché sono gli oggetti che ti guidano e ti dicono dove andare. Ma se abbassi il volume del mondo intorno a te, capita che quelle cose ti raccontino storie che ti eri dimenticato, o cui avevi cercato di non pensare più. Insomma, in questo manoscritto ci sono pezzi della mia vita raccontati sotto forma di oggetti, pezzi di cui mi sono liberato, E penso che liberandomi anche di queste 400 pagine, alla fine, tutto mi sembrerà ancora più leggero. It could be England or it could be Peru, and you would know how bad I like to be with you. Well, you know better than me on all kinds of topics, like what fruit is native, what fruit is exotic. You know the right names for flowers and for animals too. I hope you know how bad I like to be with you. Do, do, do, do. L'ho già fatto, ma lo ripeto. Le puntate non sono in ordine. L'altro giorno, prima di desistere, stavo cercando di sistemarle un po'. E ho letto qua e là quello che avevo scritto in questi mesi. Fa uno strano effetto, effettivamente. Cioè, alcune cose mi sembrano già datate. Altre mi sembrano un po' ingenue. Altre ancora proprio invece non le penso già più. Ce ne sono alcune però in cui mi ritrovo perfettamente e rileggerle è un po' come vedere una mia foto di qualche mese fa. Quando parlavo dell'orologio, ad esempio. Io sono tornato ad essere la persona che non porta l'orologio nel momento esatto in cui la storia è finita. Perché lui si è fermato. E anche se io continuavo a tenerlo al polso, lui segnava l'ora giusta solo due volte al giorno. E quindi ho smesso di guardarlo. Questo oggetto per 4 anni mi ha cambiato la vita. Lo ha fatto nello stesso modo in cui le persone che stanno con noi ci cambiano. Perché succede così, perché è giusto così. Con Giulia sono passato da essere quello che supponeva che ore fossero a quello che sapeva l'ora esatta. Mi ha fatto diventare una persona che parlava al presente quando ero uno che ipotizzava il futuro. È successo lo stesso quando ho riletto la storia del mio contapassi. Il secondo fiato è un concetto che ho cominciato ad applicare a diverse attività, non solo alla corsa, al lavoro ad esempio, ma anche alla lettura, ai rapporti umani, che siano d'amore o d'amicizia. È un po' come concedere una seconda possibilità a se stessi, un modo per sapere che, anche se sembra che non ce la fai più, forse non è vero, forse ce n'è ancora, no? In fondo, da qualche parte. E quando succede, quando effettivamente ce n'è ancora, la sensazione è meravigliosa. Perché senti che ce la stai facendo e ti senti bene, anzi, ti senti addirittura meglio di prima e pensi che potresti continuare ancora e ancora. Questo contapassi ha misurato non solo i chilometri che percorrevo, ma anche la disciplina che ogni giorno riuscivo a mantenere. Perché credo che la disciplina non sia quella che ti insegnano a scuola o al militare per chi l'ha fatto. Io non credo in una disciplina unica, credo in un metodo privato, in un esercizio intimo, che ci mette su una strada e ci fa correre o camminare al nostro ritmo, con il nostro fiato e il nostro passo. E poi alla fine ho preso coraggio a due mani e ho riletto anche la prima puntata, quella in cui tutto è cominciato. Quel giorno la mia vita è cambiata come cambia una vita quando la persona che sta con noi se ne va. Non ho deciso subito di vendere tutto e andarmene. Non è stato immediato, però sicuramente la scintilla si è accesa lì. Quella che vendo oggi, quindi, è la mia bottiglia. E questa era la sua storia. Una storia che fino ad oggi è stata parte della mia vita. E ora può diventare parte della vostra. Basta che ve la compriate. Eppure, nonostante il pezzo di vita che contiene, anche questo manoscritto è in vendita. Il suo valore sul mercato è pari a zero. La sua base d'asta sono i soliti 99 centesimi. Se avete voglia anche voi di raccontarmi che cosa vi è successo in questi 6 mesi, 800 24 0024. Io ho cambiato posto di lavoro ed è aumentata la mia famiglia perché mi si è presentato a casa un micio che non mi ha più mollato, Ugo. Sono diventato buddista, Giancarlo da Nettuno. Sì, qualcuno c'è, 6 mesi completamente in bianco. Ah, questo si riferiva a chi non ha mai fatto l'amore per 6 mesi. Qualcuno c'è, 6 mesi in bianco, anno nuovo, vita nuova, speriamo. Ciao Marta, lo spero anch'io per te. Ho scoperto che avrò un terzo figlio, non farò mai carriera sul lavoro, mio padre si è beccato una malattia incurabile e ho perso quasi tutti i risparmi in borsa. Ciao Matteo, a me è successo di perdere il lavoro, le chiavi di casa e la ruota di scorta, però in questi 6 mesi ho trovato l'affetto del mio bimbo e un nuovo amico alla radio, Matteo Caccia. e sono contento. Ho vinto il dottorato in storia dell'arte, un sogno che si realizza, e ho 6.000 foto di documenti del 600 da studiare. Niente manoscritto, grazie Valentina, grazie a te. 800240024 349-238-6666, facciamo un po' il punto e cominciamo a farlo con Enrico da Torino. Pronto Enrico? Pronto, ciao. Ciao, come stai? Benissimo. Che cosa hai fatto in questi 6 mesi di, insomma, che abbia senso raccontare? Ho buttato via tutta la mia storia, ho concluso finalmente l'analisi. Oh, durata quanto? 5 anni. E quante volte ci andavi? Cos'era? Psicanalista, psichiatra, analista? Ti sento, Enrico, scusami, mi sa che devi parlare nel microfono, altrimenti non ci sentiamo. Ok, eccomi. Ah, ok, eccoti qua. Senti, ma come finisce l'analisi? Cioè, lo decide lei o lo decidi tu? O lui, che fosse? No, ogni tanto vai e vieni, Enrico. Senti, magari riproviamo dopo, perché proprio ti perdo. Andiamo a Roma da Guglielmo. Pronto, Guglielmo? Ciao, Matteo. Ciao, come va? Tutto bene, sto guidando e vi ascolto. Ma hai tipo l'auricolare o il viva voce? Ma chi se ne frega, sì, anche d'altra parte non no, è no. Che... Bravo. Senti, cos'è accaduto in questi 6 mesi? Guarda, io ho iniziato ad ascoltare proprio la tua trasmissione perché ero nella tua condizione, stessa età, e sono stato lasciato anch'io dopo 3 anni insieme, mi è caduto proprio il pavimento sotto i piedi e stavo malissimo. Uh-huh. E poi da gennaio ho incontrato un'altra ragazza e la cosa bella è che non credevo che potesse risuccedere, non credevo che potessi ristare meglio, bene, come prima, capito? Ed è stato bellissimo, meraviglioso, adesso va bene, sono tranquillo e... Bravo Guglielmo, quanti anni hai? 36. 36 e lei ne ha? 28. Perché hai riso, scusami? No. Vabbè, no, perché tutti prendono in giro per l'età, anche la ragazza precedente aveva la stessa età. C'è la stessa età, la stessa differenza di età, oppure? La stessa differenza di età, sì. 28, ma cosa fa lei? È architetto, come me. Quindi sul posto di lavoro vi siete incontrati? Diciamo, se io ultimamente faccio un altro lavoro, come la maggior parte delle persone che ti ascoltano, faccio un lavoro di marketing, visito studi di architettura. Fai il consulente, Guglielmo. Sì, diciamola tu, oh, Guglielmo fa il consulente, benissimo, bravo. Perciò l'ho incontrata lì e insomma è andata. Ma così, fammi capire, poi ti lascio andare, scusami, siamo nella fase ancora approccio oppure proprio? No, l'approccio ormai siamo insieme, non è più approccio. State insieme, no, ma vivete insieme già? Proprio no. Adesso ci pensi un attimo prima di... No, a cosa? Di andare a vivere insieme. No, ma neanche prima vivo insieme. Ah, ok. Comunque, non ci pensi neanche proprio. No, non è vero, questo no, però insomma... Dove andate in vacanza? Proprio fatti tuoi puri. Sicilia, siamo tutti e due siciliani, io di origine, Palermo. E quindi ovviamente nella migliore tradizione prima casa dei tuoi e poi casa dei suoi. E così sei inguaiato fino al collo. Più o meno sì, stiamo così. Palermo, Catania, ci veniamo a trovare... Ma vogliamo dire come si chiama questa cristiana anche? Certo, Valentina. Oh, Valentina. C'è una Valentina che ha scritto, spero non fosse quella che era in astinenza da 6 mesi. No, si chiamava Marta. Ciao Guglielmo, grazie mille, in bocca al lupo. Ciao Matteo, ciao, alla grazie, prossima, ciao. Stai bene. Ciao. Andiamo e poi chiudiamo, non mandiamo la lista, Tiziano. Andiamo da Maria Luisa, la provincia di Padova. Ciao Matteo. Ciao, come stai Maria Luisa? Bene, tu? Io bene. Io direi. Anch'io. Hai una voce splendida, hai un modo di fare che mi piace tantissimo. Ma... e ti ascolto quasi sempre quando posso. Cosa fai Maria Luisa nella vita? Io sono psicoterapeuta e sono diventata psicoterapeuta perché ho avuto una vita bruttissima fino a poco tempo fa. Atroce, ho conosciuto, guarda, tutta la sofferenza psicologica, abusi, violenze all'interno della mia famiglia. E adesso, negli ultimi 6 mesi, sì, ho realizzato tutti i miei sogni. Ad esempio, dimmene qualcuno. Uno che li comprende tutti, perché vivo finalmente da sola con i miei 3 cagnolini, 2 dei quali di razza bolognese, che sì, sono Silvia e Maltesi, non so se li conosci. No. Ecco, sono strafelice. Bravo, dov'è che abiti esattamente Maria Luisa? A Teolo, in provincia di Padova. Senti, e tu cos'hai, uno studio di psicanalisi oppure... Sì, hai uno studio. Studio di psicoterapia, orientamento psicanalitico. Senti, ma come si capisce che a un certo punto un paziente non ha più bisogno? Sai, è quello che è successo anche a me, anzi che sta succedendo a me. Cioè, semplicemente che sei felice. Perché ti spiego, no, ma anche perché io sono... però deve essere un po' breve, Maria Luisa, perdonami perché sì, stiamo quasi finendo. Sono stata in terapia tantissimi anni. per sì. tutto quello che ho subito. E a un certo punto mi sono accorta di essere felice, quindi di non avere più bisogno del mio terapeuta, per cui ci stiamo un po' alla volta salutando. Maria Luisa, stai lì un secondo, perché c'è Enrico di Torino che anche lui ha appena finito una terapia, quindi vi prendiamo insieme un po' e fa subito Raffaella Carrà. Enrico! Eccomi. Eccoci qua, stavamo dicendo, quando è che si capisce? Tu come l'hai capito che non ne avevi più bisogno? Che stavo bene. Anche tu, benissimo. Direi che... Senti, c'è qualcosa che vuoi dire a Maria Luisa? O Maria Luisa, c'è qualcosa che vuoi dire a Enrico? O magari volete incontrarvi, ad esempio. Che ne so, uno sta a Torino, l'altro a Padova. Facciamo così. Adesso fuori onda, magari la fa Jean, che è bravissima in queste cose, nel trovare i match tra gli uomini e le donne, vi dai rispettivi numeri. Ed è subito Vendo Tutto, agenzia di cuori solitari. Grazie Enrico, grazie Maria Luisa, ringrazio quelli che hanno scritto. In questi mesi è arrivato e se n'è andato il mio primo amore. Tutto il resto l'ho dimenticato. Manuela da Brescia, grazie a Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Paolino Corleoni. Il manoscritto è sul sito radio24.it, sul profilo Facebook Matteo Caccia, Vendo Tutto. Domani vendo casa mia. Voi invece tenetevi forte che domani è l'ultima puntata. Love, love, love.